Ad alta voce, Elia Shilton legge Le linee d'ombra, dal libro The Shadow Lines di Amitav Ghosh, copyright 1988, tutti i diritti riservati. Traduzione di Anna Natotti. Tredicesima puntata. Deve essere stato all'incirca a quell'epoca che May ricevette la quarta lettera di Tridib. La trovò sul tappeto insieme alla bolletta del gas quando aprì la porta di casa rientrando dal college. Capì che era di Tridib per via dei francobolli, ma a parte ciò era del tutto diversa dalle lettere che aveva ricevuto da lui. Le altre erano sempre molto brevi, in pratica delle cartoline. Che questa invece fosse di parecchi fogli lo si intuiva dal peso della busta. Era piuttosto incuriosita, ma decise di tenerla per dopo. La portò in cucina senza aprirla e porse la bolletta del gas a sua madre. Mrs. Price notò la busta e May, vedendo che l'aveva notata, borbottò qualcosa riguardo al fatto che Tridib le aveva scritto di nuovo. Mrs. Price annuì con aria distratta e si girò alla ricerca del bollitore. May udì il rumore della chiave di Nick nella serratura e corse in camera sua con la lettera. Avevano litigato anche quella mattina per il bucato o qualcosa di simile e non voleva logorarsi in un ennesimo litigio con lui. Quella sera desiderava essere al suo meglio. Doveva andare in una chiesa di Kilburn per le prove di un quintetto messo insieme da un amico. Sbatté la porta, si buttò sul letto e aprì la busta strappandola con i denti. La lettera le scivolò dalle mani. Era perfino più lunga di quanto avesse immaginato. Quando finì di leggerla, aveva il viso imperlato di sudore. Toccandosi con una mano sentì le guance che scottavano come se avesse la febbre. Saltò giù dal letto e si precipitò in bagno. Si chiuse la porta alle spalle, con garbo, quasi furtivamente, e vi si appoggiò trattenendo il respiro. Teneva la sua fotografia sullo scrittoio, le diceva Tridib. Gli piaceva averla davanti agli occhi mentre le scriveva, ma era in qualche modo terribile averla lì con gli occhi fissi su di lui. Voleva dirle tante cose, ma ogni volta che la fotografia catturava il suo sguardo si ritrovava a pensare a Lymington Road e a Hampstead. In realtà non era proprio così, non esattamente. Non pensava a Lymington Road. La vedeva chiarissimamente, come se fossero lì insieme, seduti in giardino sotto il ciliegio. Una sera di settembre, per esempio, alla fine di una bella giornata, c'era stato un solo breve allarme verso mezzogiorno. Era l'ora del tramonto, il sole declinava oltre i tetti delle case sul lato opposto di West End Lane. Presto avrebbe fatto ritorno al numero 44, presto, ma non subito. C'era tutto il tempo per andare fino all'angolo a dare un'occhiata alla casa che era stata colpita da una bomba il giorno prima. Aveva attraversato la strada impulsivamente, dimenticando di guardare a destra e a sinistra, come gli era stato insegnato, e naturalmente aveva sentito da qualche parte alla sua destra uno stridore di gomme seguito dall'urlo rabbioso di un clacson. Non aveva osato voltarsi indietro fino a che non si era messo in salvo sul marciapiede. Un uomo con una grossa faccia rossa, infuriato e minaccioso, stava sbucando da una piccola Morris. Lui aveva alzato i tacchi e si era messo a correre più in fretta possibile senza voltarsi indietro. Appoggiandosi a un muro, si era guardato intorno alla ricerca di un posto in cui riposarsi. Sull'altro lato della strada c'era una fila di piccoli negozi. Erano tutti chiusi. Dalla sua stessa parte c'era un muro alto, no, non proprio un muro, piuttosto il fianco di un grande edificio. Era un susseguirsi ininterrotto di mattoni rossi, nessun posto in cui sedersi, neppure il vano di una porta. Stava per tornare sui suoi passi, quando qualcosa all'estremità della strada aveva attirato la sua attenzione. Sembrava un'apertura, o piuttosto un buco. Non riusciva a capire che cosa fosse, così decise di andare a dare un'occhiata. Trovò all'interno di un edificio alto, simile a un magazzino. Si guardò intorno confuso, cercando di capire che cosa fosse. Poi vide molte file di poltrone disposte a semicerchio e capì che si trattava di un cinema. Ora però i sedili vuoti erano rivolti verso un buco nella parete, perché gran parte del fronte dell'edificio, dove un tempo c'era lo schermo, era stato spazzato via. Attraverso il buco scorgeva i tetti. Probabilmente la bomba era esplosa laggiù, vicino allo schermo. Forse era sembrata parte del film. Nel pavimento si apriva un buco profondo sul cui orlo stavano in equilibrio due poltrone inclinate in modo bizzarro, come se ci avessero appena scaraventato dentro i rispettivi occupanti. Girandosi indietro, vide che la galleria che si affacciava sulle ultime file di poltrone del piano sottostante era ancora intatta. Sembrava che non fosse stata danneggiata affatto. Andò istintivamente in quella direzione. Quando andava al cinema gli piaceva sedersi in galleria ed era contento che questo locale ne avesse una. Talvolta non ce l'hanno. Oltrepassò agilmente le poche poltrone contorte che costruivano il corridoio. Non c'erano calcinacci, erano stati ordinatamente ammucchiati negli angoli. Il corridoio conduceva a una porta in fondo alla platea. Vi appoggiò un orecchio e, non sentendo rumori dall'altra parte, la spinse con cautela. Dava sul foyer. La cassa non era stata toccata. Si aveva l'impressione che da un momento all'altro potessero accendersi le luci. Lasciò andare la porta che, ruotando sui cardini, tornò al suo posto, chiudendo fuori i riflessi luminosi del tramonto. Di colpo fu molto buio. Avanzò lungo la parete fino alla zona più chiara, in cui pensava fosse la scala d'accesso alla galleria. Sembrava molto più lontana del previsto, ma proprio quando credette di essersi perso, inciampò nei gradini. Prese a strisciare a carponi, tastando prudentemente davanti a sé. Non gli andava l'idea di precipitare da un qualche buco. Procedette lungo una curva della scala e poi su per un'altra rampa ed eccolo finalmente all'ingresso della galleria. Riusciva di nuovo a vedere perché la luce del tramonto filtrava delicatamente attraverso la breccia dello schermo. La galleria era intatta, non aveva subito danni, era leggermente in discesa e il tessuto blu delle poltrone riluceva come velluto nel chiarore del tramonto. Si lasciò andare su una poltrona raggomitolandosi su se stesso. Era divertente sistemarsi a quel modo al cinema. A volte riusciva a sfiorare il naso con le ginocchia, ma quel giorno non provò. Si buttò all'indietro e guardò in su. Stare seduto sulla poltrona felpata di un cinema e trovare un cielo al crepuscolo che ti guarda dall'alto era stranamente comico. Si alzò e scese fino al limite della galleria, si mise bocconi e sbirciò tra le sbarre della balaustra di ferro battuto. Di lassù i sedili contorti della platea avevano un'aria bizzarra, sembravano piante che si allungano a spirale verso la luce del sole. Si girò e si accorse che attraverso la breccia da cui era entrato riusciva a vedere il marciapiede. Se ne stava disteso così, guardando la strada e fischiettando fra i denti, quando vide comparire un'ombra sulla parete esterna. Sorpreso, smise di fischiettare e rimase in osservazione, sospettoso e pronto a scappare. Passò una donna con un abito blu che dopo un attimo tornò indietro e rimase immobile nella cornice dell'arco irregolare del muro. Guardava verso il basso con un'espressione irritata e lui, seguendo il movimento degli occhi, vide che teneva al guinzaglio un piccolo spaniel bianco e marrone. Si era fermato a depositare i suoi escrementi sul marciapiede. Con una smorfia la donna frugò nella borsetta, prese una sigaretta e l'accese. Aspirò profondamente, tirando in dentro le guance, poi buttò indietro la testa e liberò delicate volute di fumo attraverso le narici. Mentre la donna dava un altro tiro di sigaretta, un secondo paio di piedi, questa volta di un uomo, fece la sua comparsa sul marciapiede opposto, anche se dal suo punto di vedetta sembravano pendere dalla breccia a forma di arco come una nuvola in un quadro. I piedi si fermarono esitanti e attraversarono la strada. Adesso poteva vedere l'uomo. Indossava un uniforme blu e un berretto. Senza dubbio era un aviatore, forse addirittura un pilota. Aveva la bocca sottile e teneva tra le labbra una sigaretta spenta. Alla vista dell'uomo che si dirigeva verso di lei, la donna si voltò di scatto. Tirò il guinzaglio del cane, ma quello non si mosse. Puntò le zampe sul marciapiede e cominciò a uggiolare. L'uomo non ci fece caso. Si avvicinò, si chinò ad accarezzargli la testa, poi alzò gli occhi, sorrise e disse qualcosa alla donna indicando la sigaretta spenta. La donna annuì, frugò nella borsetta alla ricerca dell'accendino e glielo porse. L'uomo accese la sigaretta proteggendo la fiamma nell'incavo delle mani, poi se la tolse di bocca e le mormorò qualcosa all'orecchio. Aveva un'espressione particolare mentre accennava col capo in direzione della breccia nel muro del cinema. Sulle prime la donna si tirò indietro e aprì la bocca con aria stupita insieme a offesa. Poi lo guardò di nuovo con calma e il suo viso si addolcì. Continuò a guardarlo scuotendo il capo e sogghignò. Allora l'uomo si mise a ridere e infilò un braccio sotto il suo. Lei sollevò il cane e dopo aver dato un rapido sguardo alla strada, scavalcarono la breccia. Una volta entrati, si guardarono intorno, improvvisamente ciechi nelle tenebre che cercavano di penetrare. Adesso il ragazzo aveva tutto il tempo di osservarli. Lei aveva un viso bianchissimo, con labbra di un rosso brillante. Lui era molto più alto, di corporatura robusta, ma lei sembrava decisamente più vecchia. L'uomo le cinse la vita con un braccio e indicò un punto lungo il corridoio proprio sotto gli occhi del ragazzo. Lei ridacchiò di nuovo, ma gli permise di stringerle un gomito e di condurla più avanti. Aveva i tacchi alti e inciampava continuamente nel tappeto e nei sedili contorti, ma l'uomo era a suo agio, come se conoscesse il posto, e riusciva a evitare che cadesse. Quando raggiunsero la zona sgombra del corridoio tappezzato proprio sotto di lui, ansimavano tutti e due pesantemente. Tutto a un tratto l'uomo lasciò il braccio di lei, la fece girare su se stessa e le diede un bacio in mezzo alla fronte. Prese il cane, lo depose su una poltrona e attorcigliò il guinzaglio intorno al bracciolo. Poi si girò e subito la donna gli si appese al collo, avvicinò a sé la sua testa e premette la bocca su quella di lui. Gli stringeva la testa con tale forza che le nocche erano bianche per la tensione. L'uomo riuscì a divincolarsi, sorridendo, liberò una mano e, tenendo la donna stretta a sé con l'altra, la allungò a sollevarle la gonna. Lei si alzò sulle punte dei piedi, allargando le gambe, e premette le labbra sull'orecchio di lui. Lui rise, la sollevò dal pavimento con un robusto slancio delle spalle e insinuò con delicatezza la mano sotto la gonna lungo le cosce. La donna gli mordicchiava l'orecchio e in risposta la mano di lui si fece strada più su, sotto la gonna, dove rimase. Lei emise un brevissimo grido a denti stretti, poi cominciò a muovere spasmodicamente il sedere. A quel punto l'uomo la rimise a terra, tolse la mano da sotto la gonna e se l'avvicinò al naso, strofinando insieme le dita. Le annusò sorridendo, poi le avvicinò al naso di lei. Lei volse la testa di lato con una smorfia e lui baciò le proprie dita ridendo. Risero insieme, poi lui la trasse a sé e spinse con forza la lingua dentro la sua bocca e lei infilò una mano tra i loro due corpi, sotto la cintura, dentro i pantaloni dell'uomo. Lui strinse di scatto le spalle e per un attimo trattenne la mano di lei dove si trovava, dentro i suoi pantaloni. Poi si staccò leggermente, slacciò la cintura, la circondò con un braccio e la fece distendere sul pavimento. All'improvviso il cane cominciò ad abbaiare, un suono lacerante, orribile. Il ragazzo alzò gli occhi verso la breccia nel muro e vide passare un uomo con un cappello nero. Quando udì il cane, l'uomo con il cappello nero si fermò e sbirciò all'interno. Il ragazzo era preoccupato per l'uomo in uniforme e per la donna con l'abito blu. Avrebbe voluto che zittissero il cane. La donna si mise seduta e diede una sberla sul muso del cane che guaì e smise di abbaiare. L'uomo con il cappello nero scosse il capo e se ne andò. Ora la donna aveva fretta. Il ragazzo lo capiva dal respiro, afferrò fulmineamente il fondo del pullover e se lo sfilò insieme alla camicetta. Poi si sollevò un attimo, portò le mani dietro la schiena e il reggiseno cadde immediatamente. I seni erano pesanti e sodi, arrivavano a sfiorarle l'addome, la pelle era molto chiara e un po' grinzosa, come se avesse appena passato delle ore immersa nel mare. Il ragazzo riusciva a vederne i capezzoli, scuri e rotondi come i due penny che portava al giornalaio ogni mattina. Al centro erano duri e appuntiti e molto scuri come acini d'uva. Avrebbe voluto sporgersi per toccarli e stringerli tra le dita. L'uomo in uniforme vi appoggiò le mani. Il corpo della donna fu scosso da un brivido e il dorso si inarcò. Non sorrideva più, sudava e le gocce scavavano dei solchi nella cipria bianca che le copriva il viso. Slacciò i ganci della gonna e l'uomo gliela tolse. Poi le tolse anche le mutandine, mise una mano sull'ombra umida tra le sue gambe e la sfiorò con il pollice, con gentilezza, sorridendo. Lei gemette e sporse il bacino verso di lui, ma aveva freddo ora, aveva la pelle d'oca sul petto e sull'addome e cercò di attirarlo subito sopra di sé. Lui invece si mise fuori dalla sua portata, si accucciò bilanciandosi sulle punte dei piedi e sulle ginocchia e si abbassò i pantaloni fino alle caviglie. La donna si protese verso l'uomo e, guardando le sue braccia tese, il ragazzo ebbe l'impressione che le allungasse verso di lui e tutto un tratto si accorse di tremare con il bacino schiacciato contro il pavimento della galleria. Quando riprese a guardare, l'uomo era disteso sopra di lei, i fianchi tra le sue cosce aperte. Indossava ancora il berretto e la giacca. Soltanto le natiche erano nude. Il ragazzo vedeva le gocce di sudore che scivolavano giù, imperlando la linea di peli bruni che le divideva. Thank you. Il cane riprese ad abbaiare e subito il ragazzo volse gli occhi alla breccia. Questa volta c'erano due paia di piedi dall'altra parte della strada. Trattenne il respiro chiedendosi se ci fosse qualche probabilità che non udissero il cane né il baccano che facevano quei due. I rumori del loro orgasmo erano adesso insopportabilmente forti. Un rumore violento, ansimante, in armonia con lo sbattere ritmico dei loro corpi sudati. Sentiva le ginocchia tremargli con un'ansia e un desiderio che non riusciva a comprendere, mentre un dolore violento, bruciante, gli attraversava il corpo e si concentrava nell'inguine, ma era consapevole di non volere che i due venissero scoperti da quei tizi là fuori. Era consapevole di essere dalla loro parte. Voleva a ogni costo trovare un mezzo per avvertirli. Le due paia di piedi sul marciapiede si allontanarono senza fermarsi e il ragazzo ne fu così felice per loro e per sé che stava per mettersi a sghignazzare. Fu allora che sentì, al piano di sotto, l'uomo che esplodeva irrigidendo il corpo e la donna che gridava dolcemente, agitava i piedi in aria e inarcava la schiena sollevando il corpo di lui. A quel punto il ragazzo si alzò in piedi tranquillo e scivolò fuori senza essere visto. May si spruzzò il viso con l'acqua e mentre sgocciolava nel lavandino cercò di riprendere il controllo di sé. Era successo tanto tempo fa, diceva ancora la lettera. Ormai non sapeva più se tutto ciò fosse davvero accaduto o se fosse frutto della sua immaginazione. Sapeva però che era così che lui voleva incontrare lei, May, come un'estranea in mezzo alle rovine. Desiderava che loro due potessero incontrarsi come due perfetti sconosciuti, stranieri venuti dal mare, ancora più estranei l'uno all'altro, proprio perché si erano già conosciuti. Desiderava che potessero incontrarsi lontano da amici e familiari, in un luogo senza passato, senza storia, liberi, davvero liberi, due persone che si mettono insieme con l'amara libertà degli estranei. Ma perché ciò accadesse, lei avrebbe dovuto venire in India. Avrebbe scovato un posto come quello. Lui era un esperto in rovine. May si sedette sull'orlo della vasca e si toccò di nuovo la faccia. Scottava ancora. Decise che scottava perché era arrabbiata e non c'era da stupirsi che lo fosse. Chi non lo sarebbe se ricevesse una lettera pornografica da un uomo che non ha mai incontrato e che non incontrerà mai? Diede un'occhiata all'orologio e vide che era ora di andare alle prove. Passò dal salotto per dire a sua madre che usciva e che non sarebbe rientrata per cena. Mrs. Price leggeva seduta in poltrona. Si tolse gli occhiali per guardare May, annuì e disse con aria assente: «Non fare troppo tardi, cara, per favore». «Naturalmente no, lo sai», rispose May. Si era già voltata quando Mrs. Price disse: «Dimenticavo, che cosa ti dice Tridib nella sua lettera?» Senza rendersene conto, May si ritrovò a dire: «Ah, non molto, mi propone di andare in India». Mrs. Price sorrise e distolse dal libro uno sguardo annebbiato. «È una buona idea, dovresti andarci», disse. May le sorrise di sfuggita e si affrettò a uscire di casa. Solo quando fu in Lymington Road si chiese perché avesse mentito a sua madre dal momento che si era ripromessa di non farlo. Sembrò che le prove non dovessero finire mai. Più tardi, mentre bevevano un tè, il clarinettista, che era impegnato in una ricerca su qualcosa che aveva a che fare con la musica francese contemporanea, parlò di Messiaen e delle influenze della cultura indiana sulla sua musica. E ne fu sorpresa. Aveva sempre pensato che fosse solo trilli d'uccellini e roba simile, e sembrò comunque una bizzarra coincidenza. Più tardi, mentre percorreva Kilburn High Road, tornando a casa, si scoprì a pensare di nuovo a Messiaen. Non aveva niente di suo in casa. L'indomani avrebbe fatto un salto in un negozio di dischi per dare un'occhiata. Poco più avanti, aspettando il verde per attraversare, si ritrovò a ciondolare davanti a un ristorante indiano, il Taj Mahal Curry Palace. su una vetrina era dipinto il Taj Mahal. Osservandolo si chiese se dopo tutto non avesse ragione sua madre. Forse non sarebbe stata una cattiva idea. Era per via di Messien, niente a che vedere con Tridib. Si toccò il viso e si accorse che scottava di nuovo. Si voltò di scatto e attraversò la strada di corsa. Questa era dunque la 13ª puntata delle Linee d'Ombra di Amitav Ghosh, nella traduzione di Anna Anadotti, letta da Elia Shilton per Ad Alta Voce, che è a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, da riascoltare su raiplayradio.it. Naturalmente anche domani e dopodomani, giorni in cui saremo a Più Libri Più Liberi, andranno in onda le puntate di Ad Alta Voce. Non ne perderete dunque nemmeno una.